Ricevemmo discreta attenzione femminile, come la merenda servita fra due sedute di posa dalla compagna del pittore e supplemento gratuito di quelle del marito, la visita di Madame Cottard. Veniva a offrirci la sua camerista. Se avessimo preferito i servigi di un uomo, si sarebbe messa in caccia e di fronte ai nostri rifiuti replicò che quantomeno sperava non si trattasse da parte nostra di una scappatoia, parola che, nel suo ambiente, significa un falso pretesto per non accettare un invito. Ci assicurò che il professore, il quale in famiglia non parlava mai dei suoi malati, era triste come se si fosse trattato di lei in persona. Si vedrà più tardi che, quando anche questo avesse risposto a verità, sarebbe stato al tempo stesso pochissimo e molto, venendo dal più infedele e riconoscente dei mariti. Offerte altrettanto utili e infinitamente più toccanti per il modo che conciliava una straordinaria intelligenza, un'eccezionale generosità e una rara felicità d'espressione, mi furono rivolte dal Granduca ereditario di Luxemburg. L'avevo conosciuto a Balbec, dove era venuto in visita da una sua zia, la principessa di Luxemburg, quando era ancora semplicemente il conte di Nassau. Qualche mese dopo aveva sposato l'incantevole figlia di un'altra principessa di Luxemburg, immensamente ricca perché era figlia unica, e il principe suo padre era proprietario di una colossale azienda di farine. A questo punto il Granduca di Luxemburg, che non aveva figli e adorava quel nipote Nassau, aveva ottenuto dalla Camera l'approvazione di un decreto che lo creava Granduca ereditario. Come in ogni matrimonio del genere, l'origine della fortuna costituisce al tempo stesso la causa efficiente e l'ostacolo. Ricordavo il conte di Nassau come uno dei giovani più notevoli che io avessi mai incontrati, già divorato allora da un cupo e folgorante amore per la sua fidanzata. Fui molto commosso dalle lettere che non cessò di scrivermi per tutto il periodo della malattia della nonna, e anche la mamma, colpita, ripeteva con tristezza una frase di sua madre: «Sévigné non si sarebbe espressa meglio». Il sesto giorno la mamma, per assecondare le insistenze della nonna, dovette lasciarla un attimo e far finta di andare a riposarsi. Avrei voluto, perché la nonna si addormentasse, che Françoise non si muovesse. Malgrado le mie suppliche, uscì dalla stanza. Voleva bene alla nonna. Con la sua chiaroveggenza e il suo pessimismo, la considerava spacciata. Era disposta, dunque, a usarle tutte le possibili premure. Ma le avevano annunciato l'arrivo di un operaio elettricista, il più anziano della ditta e cognato del principale, che godeva di grande stima nel nostro palazzo, dove veniva a lavorare da parecchi anni e in particolare da parte di Jupien. Lo si era chiamato prima che la nonna si ammalasse. Mi sembrava che si sarebbe potuto dirgli di tornare un'altra volta o farlo aspettare, ma il protocollo di Françoise non lo consentiva. Sarebbe stato poco gentile nei confronti di quel brav'uomo. Le condizioni della nonna non contavano più. Quando, un quarto d'ora dopo, esasperato, andai a cercarla in cucina, la trovai che conversava con lui sul pianerottolo della scala di servizio, la cui porta era aperta, procedimento che aveva il vantaggio di far credere, se sopraggiungeva uno di noi, che fosse già iniziata la fase dei saluti, ma anche l'inconveniente di creare spaventose correnti d'aria. Françoise si separò dall'elettricista, non senza avergli gridato qualche ultimo complimento, di cui si era scordata, per sua moglie e suo cognato. Scrupolo, questo, di non venir mai meno agli obblighi della gentilezza, che era tipico di Combré, ma al quale Françoise si atteneva anche in politica estera. Gli sciocchi si figurano che le vaste dimensioni dei fenomeni sociali forniscano la migliore occasione per penetrare più a fondo nell'animo umano. Dovrebbero, al contrario, rendersi conto che solo addentrandosi in una singola individualità avrebbero modo di capire quei fenomeni. Françoise aveva ripetuto mille volte al giardiniere di Combré che la guerra è il più insensato dei crimini e che nulla ha valore all'infuori della vita. Ora, quando scoppiò il conflitto russo-giapponese, le causò disagio nei confronti dello zar che non fossimo entrati in guerra per aiutare i poveri russi, dal momento, diceva, che eravamo alleanzati. Le sembrava poco gentile verso Nicola II, che aveva sempre avuto delle così buone parole per noi. Era un effetto dello stesso codice che le avrebbe impedito di rifiutare un bicchierino offertole da Jupien, pur sapendo che le avrebbe contrariato la digestione, e in forza del quale si sarebbe sentita colpevole di una scortesia analoga a quella commessa dalla Francia, rimanendo neutrale col Giappone se, nell'imminenza della morte di mia nonna, non fosse andata a scusarsi di persona con quel bravo elettricista che si era preso un simile disturbo. Per fortuna ci liberammo ben presto della figlia di Françoise, costretta ad assentarsi per diverse settimane. Ai soliti consigli che, a Combray, si usava impartire alla famiglia di un malato: non avete provato con un viaggetto, un cambiamento d'aria, stimolare l'appetito, eccetera? Costei aveva aggiunto l'idea pressoché fissa che si era appositamente forgiata e che ripeteva in ogni occasione, senza mai stancarsi e come per ficcarcela bene in testa: avrebbe dovuto curarsi radicalmente sin dall'inizio. Non raccomandava un genere di cura piuttosto di un altro, bastava che fosse radicale. Quanto a Françoise, ci vedeva somministrare alla nonna poche medicine. Siccome, secondo lei, le medicine servivano solo a rovinare lo stomaco, ne era felice, ma anche e in maggior misura umiliata. Aveva nel sud dei cugini, relativamente ricchi, la cui figlia, ammalatasi in piena adolescenza, era morta a 23 anni. In quel breve periodo, il padre e la madre si erano rovinati a furia di rimedi, medici vari, pellegrinaggi da una stazione termale all'altra sino al decesso. Ora, questo sembrava a Françoise, per quei suoi parenti, una specie di lusso, come se avessero avuto dei cavalli da corsa o un castello. E loro stessi, malgrado l'afflizione, traevano qualche motivo di vanità da quella valanga di spese. Non avevano più nulla, a cominciare dal bene più prezioso, la figlia, ma amavano ripetere d'aver fatto per lei non meno e forse più di quanto avrebbero fatto le famiglie più agiate. Dei raggi ultravioletti, alla cui azione la poveretta era stata sottoposta per mesi più volte al giorno, andavano particolarmente fieri. Il padre, inorgoglito nel dolore come per un titolo di gloria, giungeva qualche volta a parlare della figlia come di una stella dell'opera per la quale si fosse rovinato. Françoise non era insensibile a una tale messa in scena. Quella che circondava la malattia della nonna le sembrava un po' povera, buona appena per una malattia da teatrino di provincia. Vi fu un momento in cui i guasti dell'uremia coinvolsero gli occhi della nonna. Per qualche giorno non vide più. I suoi occhi erano rimasti uguali, non erano affatto gli occhi di una cieca. Ed io mi resi conto che non vedeva soltanto dalla stranezza di un certo sorriso con cui ci accoglievano appena aprivamo la porta e finché non le prendevamo la mano per salutarla. Un sorriso che cominciava troppo presto e le restava stereotipato sulle labbra, fisso e sempre frontale, destinato a essere visto da ogni punto, perché gli occhi non l'aiutavano più a regolarlo, a sceglierne il momento e la direzione, a metterlo a fuoco, a variarlo man mano che la persona entrata nella stanza cambiava posto e espressione. Perché rimaneva solo, senza un sorriso degli occhi che ne avrebbe un po' distolto l'attenzione del visitatore, e assumeva dunque nella sua goffaggine un'importanza eccessiva, finendo col dare l'impressione di una gentilezza esagerata. Poi la vista ritornò completamente e dagli occhi il male nomade si trasferì alle orecchie. Per alcuni giorni la nonna fu sorda e poiché temeva di essere sorpresa da qualcuno che entrasse all'improvviso senza che il suo udito l'avesse preavvertita, ad ogni istante, sebbene stesse coricata dalla parte del muro, voltava bruscamente la testa verso la porta. ma il movimento che faceva col collo era maldestro, per l'impossibilità di abituarsi in pochi giorni alla trasposizione che consente, se non di vedere i rumori, almeno di ascoltare con gli occhi. Alla fine i dolori diminuirono, ma aumentò l'impaccio della parola. Eravamo costretti a farle ripetere quasi tutto ciò che diceva. Adesso, accorgendosi che non la capivamo più, la nonna rinunciava del tutto a parlare e rimaneva immobile. Quando mi vedeva, aveva una specie di soprassalto, come uno che, di colpo, si senta mancare l'aria. Cercava di parlarmi, ma non articolava che qualche suono inintellegibile. Allora, domata dalla sua stessa impotenza, lasciava ricadere la testa, si adagiava supina sul letto, il volto grave, di marmo, le mani immobili sul lenzuolo, o intente a un'azione puramente materiale, come quella di asciugarsi le dita col fazzoletto. Non voleva pensare. In seguito fu invasa da una continua agitazione, dal desiderio incessante di alzarsi, ma le si impediva, per quanto possibile, di farlo, per paura che si rendesse conto della sua paralisi. Un giorno che, per un istante, l'avevamo lasciata sola, la trovai in piedi, in camicia da notte, che tentava di aprire la finestra. Quando, a Balbec, una vedova gettatasi in mare era stata tratta in salvo suo malgrado, la nonna, mossa forse da uno di quei presentimenti che leggiamo a volte nel mistero, peraltro così oscuro, della nostra vita organica, ma nei quali sembra riflettersi l'avvenire, mi aveva detto di non conoscere crudeltà peggiore di quella di strappare alla morte, per restituirla al suo martirio, una disperata che ha voluto cercarla. Facemmo appena in tempo ad afferrare la nonna, che sostenne contro mia madre una lotta quasi brutale. Poi, vinta, fatta sedere a forza su una poltrona, cessò di volere, di rimpiangere. Il suo viso ridiventò impassibile e si mise a togliere meticolosamente i peli lasciati sulla sua camicia da notte da un mantello di pelliccia che le avevamo gettato sulle spalle. Il suo sguardo cambiò completamente. Spesso inquieto, lamentevole, scontroso, non era più il suo sguardo di una volta. Era lo sguardo stizzito di una vecchia che farnetica. A furia di chiederle se non desiderava essere pettinata, Françoise finì col persuadersi che la richiesta venisse dalla nonna. Arrivò con pettini, spazzole, acqua di colonia e un accappatoio. Diceva: «Ah, non si stancherà di sicuro, Madame Amédée, a lasciarsi pettinare. Per deboli che si sia, si può sempre essere pettinati». In altre parole, non si è mai troppo deboli perché qualcun altro non possa, per quanto lo riguarda, pettinarci. Ma quando entrai nella camera, vidi, fra le mani crudeli di una Françoise tutta estasiata come se stesse restituendo la salute alla nonna, sotto la desolazione di una vecchia capigliatura senza più la forza di sopportare il contatto del pettine, una testa che, incapace di assumere la posizione cui la si voleva costringere, crollava da ogni parte in un mulinello incessante dove la sfinitezza s'alternava al dolore. Capii che il momento in cui Françoise avrebbe terminato il suo lavoro era ormai vicino e non osai farle fretta dicendole «basta», nel timore che mi disobbedisse. Ma in compenso mi precipitai quando, perché la nonna potesse vedere se l'acconciatura era di suo gusto, Françoise, innocentemente feroce, prese uno specchio. Fui felice, lì per lì, d'essere riuscito a strapparglielo in tempo dalle mani, prima che la nonna, dalla quale avevamo allontanato con cura ogni specchio, potesse inavvertitamente scorgere un'immagine di sé che mai, certo, si sarebbe figurata. Ma, ahimè, quando l'istante successivo mi chinai verso di lei per baciare quella bella fronte così inutilmente torturata, lo sguardo che mi rivolse fu di stupore diffidente, scandalizzato. Non mi aveva riconosciuto. Secondo il nostro medico, Era questo un sintomo che la congestione del cervello aumentava. Bisognava liberarlo. Cottard esitava. Françoise sperò per qualche tempo che le mettessero delle ventose sacrificanti. Ne cercò gli effetti nel mio dizionario, ma non riuscì a trovarli. Se anche avesse detto scarificanti anziché sacrificanti, non avrebbe ugualmente trovato quel participio, giacché non lo cercava sotto la lettera S. In effetti diceva sacrificanti, ma scriveva, e di conseguenza credeva che si scrivesse, sacrificanti. Cottard, deludendola, scelse, senza molte speranze, le sanguisughe. Quando, alcune ore dopo, entrai nella stanza della nonna, attaccati alla nuca, alle tempie, agli orecchie, i serpentelli neri si torcevano nella sua capigliatura insanguinata come in quella della medusa. Ma nel suo viso pallido e pacificato, assolutamente immobile, gli oviti spalancati, luminosi e calmi, i suoi begli occhi di un tempo, forse ancora più sovraccarichi di intelligenza che non prima della malattia, perché, non potendo parlare e non dovendo muoversi, era soltanto agli occhi che affidava il suo pensiero, il pensiero che può rinascere, come per generazione spontanea, grazie all'eliminazione di poche gocce di sangue. I suoi occhi dolci e liquidi come olio, sui quali il fuoco, riacceso, ardeva illuminando davanti alla malata l'universo riconquistato. La sua calma non era più la saggezza della disperazione, ma quella della speranza. Capiva di star meglio, voleva essere prudente, evitare di muoversi, e mi fece solo il dono di un bel sorriso per informarmi che si sentiva meglio, premendomi appena la mano.